Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio da Vinitaly, stand della Regione Veneto, da dove va in onda la prima delle dirette previste da Radio 24 per questa edizione numero 44 di Vinitaly. Già due numeri a giocare, il 24 che è il nostro, il 44 di Vinitaly. Alle 17 seguirà Focus Economia, condotta da Sebastiano Barisoni, come sempre. Domattina alle 11 Nicoletta Carbone con Essere Benessere, e via via tutti gli altri, come si diceva una volta negli orari d'arrivo, sino a lunedì, giorno di chiusura dei battenti. Il rumore di fondo che sentite è quello tipico della fiera più allegra del mondo, direi, no? Vi garantisco che Vinitaly lo è, vi garantisco anche che al momento, e sottolineo al momento, nessuno dei presenti rischierebbe di essere trovato già positivo al test del palloncino. Almeno io poi la mano sul fuoco la metto per me, per gli altri no, ma insomma così, dagli sguardi mi sembra. Ce n'è uno, per la verità, che ha l'aria un po' perplessa. Oh, vale comunque per i tecnici questo, Filippo Aureggi e Davide Ciocia, vale per Elena Ligios che veglia su di noi e sul nostro stand, vale per gli amici che sono venuti a trovarci, a trovarvi, anzi. Franco Nanni, buongiorno Franco. Buongiorno. Pierino Fanna. Ciao, grazie. Gianni Mura. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Stiamo aspettando Damiano Tommasi, che ha qualche problema di parcheggio e di traffico, cosa direi abituale in un posto di questo genere. Allora, benvenuti a tutti. Grazie. Io comincio da Franco Nanni, perché ci devi portare la giustificazione dell'assenza del tuo amico e socio alberghiero Osvaldo Bagnoli. Bagnoli fa troppo il furbo. Ah, così? Sì. Lui è andato in vacanza a fare le cure termali e me mi ha lasciato in un caos tremendo. Comunque sì, perché gli alberghi durante Vinitaly a Verona, certo, effettivamente qualche certo. Infatti mi chiamano dei suoi amici per chiedere camere, e lui mi chiama da mano su mano dicendo: vedi di fare il possibile perché a queste persone ci tengo. E gli dico: bravo, da là è facile, prova a venire a Verona e vedrai la difficoltà. Fronte, perché in questi giorni, tra l'altro, noi siamo in uno stand dove in una cabina non amplissima, perché questa terrazza che la Regione Veneto ci ha riservato, e di cui ringraziamo per il posto, è tra l'altro un signor posto in questo momento. Abbiamo il neo governatore del Veneto che è appena salito le scale, ed ex ministro dell'agricoltura. Domani in questa, proprio in questa postazione, ci sarà il pranzo di gala per il presidente Napolitano, quindi quest'anno diciamo che abbiamo una postazione di primissimo ordine e siamo davvero al fronte, come voi dal punto di vista alberghiero. Ragazzi, parliamo di pallone, direi, no? Anche oggi, perché no? Non vedo perché no. Allora, prendiamola con Pierino Fanna sul piano territoriale. Buongiorno. Beh, un saluto del governatore e un augurio di buona trasmissione, sia pure al di là del vetro, mi è sembrato molto carino e propiziatorio, lo ringrazio davvero con grande piacere. Pierino, 25 anni dallo scudetto, dall'ultimo scudetto del Verona, l'ultimo... L'unico, l'unico. E forse per sempre, immagino, sì. No? Se il calcio non cambierà. Cosa avete in mente, cosa avete già organizzato? Ma adesso con questo evento che arriverà il 2 giugno allo stadio Bentegodi, come ricordavi, vogliamo festeggiare il 25esimo dello scudetto. Il tempo vola, mi sembra, da una parte mi sembra un mese fa, da come è cambiato il calcio e la vita mi sembra 200 anni fa. Comunque siamo qui a raccontarcela, stiamo tutti discretamente bene. Questo è l'importante. Esatto, eh? E quindi faremo questa partita, anche perché magari lo dirà anche il nostro presidente Franco Nanni, è stata costituita questa nostra associazione a scopo benefico, questa Onlus, che devolveremo tutto l'incasso a questa associazione per poi donarla a chi ha bisogno. Quindi è un motivo nostro per salutare i nostri tifosi, mi auguro che vengano più possibile a far coreografia, perché... A che ora giocate? Giochiamo alle 8:30 la sera contro la nazionale a Tori. Se alle 8:30 del 2 giugno sera prossimo qui non c'è il tutto esaurito al Bentegodi, io no, non conosco più Verona e i veronesi. Ma mi auguro intanto che possa combaciare con facendo gli scongiuri, perché nel calcio bisogna sempre mettere le mani da tutte le parti, che il Verona, la squadra del Verona, la nostra, il nostro Verona possa centrare questa promozione, sì. Perché stando in Serie C facciamo tutti fatica ad identificarci in questa categoria, quindi no, è un evento importante per noi. Questo sì, Piero, però, e qui mi rivolgo a Gianni Mura, capisco l'ambiente e l'umore del pubblico in questo caso, la promozione, però non farei confusione tra cronaca e storia. Ma no, insomma, con tutta la gioia che può dare ai tifosi dell'Hellas il ritorno della squadra in Serie B, ma per chi ama il calcio lo scudetto del Verona è stato l'ultimo dal volto umano, per usare una formula non nuovissima, ed è stata l'ultima vittoria di una squadra di provincia che non ha avuto solo quell'anno di gloria, che ne ha avuti almeno tre o quattro, che però quell'anno è riuscita a vincere, avendo delle risorse economiche esattamente come oggi, del resto infinitamente inferiori a quelle delle squadre delle grandi città. È stato l'ultimo caso di un allenatore che non parla quattro lingue ma due dialetti, e con tutto questo facendosi intendere benissimo, e con una filosofia calcistica che io preferisco di gran lunga a molte altre più vicine nel tempo. Sì, anche attualissime. Anche molto attuali, sì. Cioè, sembra che io voglia alludere a Mourinho, mentre invece è così. Cioè, sì, non è un'allusione. No. Questo è proprio un riferimento diretto. E quindi, chiarezza per chiarezza, siccome si parla tanto di questo grande comunicatore, per esempio Osvaldo, era uno che al ritiro in Trentino, alla fine del ritiro, davanti alla squadra schierata, diceva: i miei 11 sono questi, e gli diceva la formazione da lui. Tu confermi, Piero? Sì. Se fa male, ne aveva altri 5, non è che ne avesse 29 o 30 come adesso. Esatto, non eravamo in tanti. Però, chiarezza per chiarezza, Bagnoli ti diceva: questa è la mia squadra, queste sono le riserve, se a uno sta bene, bene, se no... Altri era anche l'unico anno del sorteggio, se vogliamo, arbitrale integrale. Questa è una cosa che spesso si ricorda. Un'altra cosa che si ricorda meno, ma che secondo me qualcosa vuol dire... La prendo non alla larga, ma insomma ricordo soltanto che da anni l'unico campionato in crescita, parlo di spettatori, è la Bundesliga, e io sono convinto che dipenda dal fatto che vince una squadra a turno, cioè che ci sono 5-6 squadre sempre in grado di vincere, e tolto il Bayern, che si ripete un po' più spesso, è molto competitivo. Quell'anno che vinse il Verona, e che si veniva da anni in cui avevano vinto anche altre squadre in tempi abbastanza recenti, e non sempre solo le tre con le strisce, cioè. Esatto. Quell'anno è il record assoluto di spettatori paganti e abbonati negli stadi italiani. 84-85 erano 38.000 e fischia, quando oggi siamo a 24, e già la Lega si frega, che fa rima le mani, dicendo: siamo risaliti rispetto alla voragine dei 19-20 dei tempi di Calciopoli. Ed ecco anche Damiano Tommasi nel nostro stand di Vinitaly. Buongiorno Damiano. Buongiorno a tutti. Senti, allenamenti come vanno? In questo momento abbiamo avuto la pausa per Pasqua, quindi pausa Pasqua. Riprenderemo stasera, io personalmente. La squadra ha ripreso ieri. La squadra ha ripreso ieri. E state andando come rispetto all'ultima volta che eravate vicini ai playoff? In linea con Serie A e B abbiamo avuto un cambio di allenatore. Anche voi? Sì. Il leader con Serie A e B non è male. Esatto. Dunque, ricorda la categoria? Seconda categoria e cosa, un colpo però di testa? Siamo al primo cambio di stagione. Al primo cambio? Beh, è un colpo di testa del presidente? Un ammutinamento vostro? Che cos'è? No, problema di lavoro? Lì è una situazione strana, per decidere il paese quasi. Il paese? È molto democratica. Sì. Ah sì? No, era un ragazzo alla prima esperienza e la squadra aveva bisogno di una scossa. Come categorie più blasonate, come fanno i grandi. Esatto. Insomma, si fa anche in seconda. Questa è carina. Senti, sai che ti ho rivisto? Io sono un vizioso notturno di calcio. Ho rivisto recentemente su ESPN, dove

anche se il grande pubblico ci dovrà essere la sera del 2 giugno, mi raccomando. Torniamo da Franco Nanni, dal presidente dei veterani, visto che poi nel Verona ci hai giocato 8 anni, mi sembra, sette, no? Anni. 7 anni. E parliamo di come sta andando questa iniziativa, che i nostri ascoltatori conoscono bene, perché ne abbiamo parlato a fondo, dettagliatamente. È una delle più belle che abbiamo sentito negli ultimi anni, certamente, e mi pare che stiate facendo proseliti, no? In giro per l'Italia. Sì, certo, procede tutto bene, siamo molto contenti. Nel frattempo ci siamo trovati col Torino, Fiorentina e noi, per avere anche un confronto tra di noi su quello che possono essere le singole idee, che non eravamo collegati, perché ognuno cercava di fare qualcosa. Poi abbiamo cominciato a collegarci tra di noi, ci siamo incontrati. Sai come vi siete incontrati? Tu non lo sai probabilmente, perché quella trasmissione che in cui eravate ospiti tu e Osvaldo Bagnoli fu ascoltata da un po' di ex giocatori del Torino, che presero cappello, se ne ebbero molto a male, sostenendo la primogenitura di questa iniziativa. Mi scrissero una letteraccia dicendomi: ma come, lei che tra l'altro da ragazzo era tifoso del Torino, era tutto vero. Ed erano persone che si chiamano Rampanti, si chiama Cereser, che si chiamano, no, gente. E io dissi, in buonissima fede, non lo sapevo. Evidentemente si vede che i veronesi comunicano meglio di voi, senza offesa per nessuno. Ecco com'è nato, e adesso per fortuna sento che invece vi state... Sì. Noi ci siamo chiariti, Rampanti assieme a Fossati, Palavicini sono venuti 2 volte a Verona, ma le nostre intenzioni non sono per fare noi le prime donne, le nostre intenzioni sono quelle che di queste realtà ne nascono tanti in Italia, per essere d'aiuto a quei propri compagni. Quindi abbiamo chiarito questo aspetto, e tanto è vero che ho detto a Rampanti che oggi ero presente a questa trasmissione, e lui mi ha ricordato: ricordati del Torino, ho detto stai tranquillo che ricorderò sia del Torino sia della Fiorentina. Di come, e noi siamo ben felici che anche queste due gloriose società facciano parte di quello che è un'iniziativa comune veramente per aiutare tanti nostri ex compagni, che ogni giorno abbiamo delle sorprese e che ci rende orgogliosi. Immagino che Damiano Tommasi, dato che è una persona di rara insensibilità come è noto, si sia negato per un'iniziativa così, no? Immagino. No, io ho una grande simpatia per Tommaso, perché a parte che io ho il cuore a Verona, è veronese, ha giocato 3 anni nel Verona, è stato in ritiro da giovane a Riccione nel mio albergo, poi l'ho sempre seguito, so tutto quello che fa, e appena ho saputo che è tornato dalla Cina, la prima cosa gli ho telefonato, ci siamo incontrati assieme a Bagnoli, ho detto: Damiano, la nostra associazione ha bisogno di persone come te, perché ci arricchiscono. Secondo me avevate bisogno di lui anche come centrocampista, perché se non sbaglio andate a giocare a Barcellona tra un po' nell'ambito... No, invece del presidente, facciamo parlare direttamente il sette polmoni. Andate a giocare a Barcellona quando? Tra poco, credo. Sì, il 23-24, il fine settimana, 24-25 aprile. Ed è un Barcellona-Verona di veterani, no? Sì. Loro hanno anche una competizione interna loro, ma di calcio a 7, calcio a 5 mi sembrava comunque al coperto, e sicuramente sono abituati. Non so come sia stata organizzata la partita, se sul campo a 11 o 11. Oppure a 11 internamente. E in panchina ci sarà, immagino, chi? Certo, l'ho dovuto convincere, perché ha pure dell'aereo Osvaldo. Sì. E l'ho convinto perché dovevo dare i nominativi, e quindi mi ha confermato che verrà. Senti, per chiudere questo capitolo, perché poi dopo l'intervallo dei mercati ne apriremo altri più attuali, però tutto, hai detto che sta funzionando bene in Italia, questo gemellaggio col Barcellona continua, è in corso, mi pare, in questi giorni, o sta per aprirsi a Liverpool, questo congresso internazionale, no, di veterani? Sì, la settimana prossima ci sarà il congresso europeo veterani, dove... Parlando con Alfonseda, hanno fatto anche una statistica europea di quello che possono essere indicativamente gli ex calciatori. Risultato che circa sono 50.000, di cui da un 15-20% se la passano malamente, quindi andiamo dalle dai 7.500 ai 10.000 ex giocatori che hanno delle difficoltà di vario genere. Mi fate respirare il Vinitaly, scrive Franco da Vicenza, grazie perché quest'anno non ci posso venire. Molto bello come messaggio. Un altro prima, che adesso non riesco più a ritrovare perché sono troppi, diceva che in fondo questa è molto bello quello che voi state facendo per i vostri ex compagni, per i veterani. Dice però in fondo ci sono iniziative sociali insomma, anche più meritorie, no? Lo diceva in una maniera non antipatica, insomma, faceva questa osservazione che per carità ha un suo fondamento. Io però ricordo sempre una grande battuta di uno che non so se ha giocato anche a Verona, Silvio Smersi, che era un ex calciatore degli anni 50, che poi divenne un artista, un pittore, un parmigiano strepitosamente divertente, che purtroppo è scomparso una decina di anni fa. Smersi raccontava sempre di essere andato al funerale di Giovanni Ferrari, grande mezzala, campione, due volte campione del mondo, di aver scoperto che Ferrari aveva lasciato scritto una sola ultima volontà, che era quella di essere sepolto con la maglia azzurra, cioè di avere indosso questa maglia che è. E poi guardava in faccia tutti gli astanti raccontandola a Smersi e diceva: avete mai sentito un operaio che volesse essere sepolto con la tuta della Fiat? Ecco, questa credo che sia, no? Una discreta riflessione che va attribuita alla memoria di Silvio Smersi. Adesso andiamo un po' più sull'internazionale, come è Vinitaly d'altra parte. Vi ricordo che siamo alla 44esima edizione di Vinitaly nello stand della regione Veneto, che quest'anno ci ha ospitato. Internazionale, allora avrete visto ieri sera, o comunque ne avrete sentito parlare, di come è finito Manchester Bayern. E la domanda che vi faccio a proposito di Rooney, e poi risponde chi vuole, ma mi piacerebbe sentire l'opinione di tutti, è questa: è meglio un asino vivo o un dottore morto in campo? Chi comincia? Vedo che vi state guardando. Un asino vivo. Mura è per asino vivo, io assolutamente tutta la vita. Per asino vivo e non per dottore morto. Lei, fan? Ma io sono dell'idea che certi campioni li devi dare comunque. Non dico che siano loro a decidere, come in questo caso Rooney, anche se era zoppo a farlo giocare. Però sono sempre giocatori che incutono timore, anche la presenza stessa può condizionare. Quindi io sono dell'idea che, almeno personalmente, quando mi è capitato, soprattutto qui a Verona, dove avevo anche una certa, così, non dico una certa, diverse volte col mister Bagnoli, era lui che dava a me l'ultima parola. Quindi per, certo, un calciatore tu provi fino alla fine, dopo è chiaro, quando l'allenatore vede che non stai bene ti può togliere. Quindi io sono d'accordo. Ma in partenza posso essere d'accordo con quello che dice Pierino, cioè intanto la grandezza di Rooney, il fatto che lui abbia diritto giustamente a una parola magari all'ultima, il fatto che possa incutere, possa cosa, ma quando dopo 20 o pochi meno minuti ricomincia a zoppicare perché prende un'altra stecca e sente benissimo lui stesso che la caviglia gli gira, a quel punto sul 2-0, ma non è mica meglio giocare in 11 anziché in 10? No. Partiamo che io dovrei tifare per l'asino zoppo, visto che sono stato dall'asino sano, visto che la mia carriera probabilmente l'ho fatta perché sono stato sano tante volte, ho giocato al posto di chi non era sano, ma credo, come ha detto Pierino, insomma, non so, un esempio è il Paraguay e il Mondiale del 2002, allenato da Maldini, e per sentito dire nello spogliatoio attraverso Paolo si diceva, insomma, che avere in porta Chilavert e avere l'altro portiere non era la stessa cosa per la difesa, eppure Chilavert non era in condizioni per giocare quel Mondiale, però dava tranquillità ai suoi, dava la serenità di avere il capitano dietro, insomma, poi Rooney lo sappiamo cosa vuol dire per il Manchester, insomma, a volte l'aspetto psicologico è anche da non sottovalutare. E poi, insomma, non voglio essere malizioso, ma in questo business a volte la formazione non la fa solo l'allenatore, penso a Ronaldo nella finale dei mondiali, certo, e quindi probabilmente no. annuisce Gianni. Mi sembra anche di aver. Io no, ho seguito l'ultimo quarto d'ora della partita, quindi non ero neanche quasi accorto che era uno in meno il Manchester, però sono andati anche sul 3-0 dopo che è uscito Rooney. Sì, per carità. Da dopo che insomma è rimasto. Ci sono state una serie di concause, compresa la sciocchezza che ha fatto questo ragazzo, questo Rafael, che si è fatto già ammonito, si è fatto espellere davvero in maniera stupidina. Però è vero quello che Damiano. Io annuivo perché, nonostante la giovane età, il signor Tommasi è saggio e quindi ha ricordato anche il dettaglio che non si sa bene a volte chi faccia la formazione. Però secondo me quella partita non è tanto Rooney non Rooney, è un pochino il crollo dell'immagine del Manchester United inteso come squadra, che è riuscito a perdere in casa sua una qualificazione che sembrava praticamente ottenuta contro una squadra certamente interessante ma di caratura molto inferiore, perché se dovessimo valutare la difesa del Bayern per esempio, alcuni raccapriccianti da Celis, però il Bayern ha questo di interessante, in questo è una squadra anche mediterranea, ha questo modo di occupare il fronte d'attacco con due larghi che a me piace tantissimo e che in Spagna credo facciano tutte le squadre dalla prima all'ultima della Liga. A proposito del Manchester, scrive Paolo da Prato, l'asino vivo era più morto del dottore, e cioè parlo di Berbatov, dice lui. Ha ragione Paolo da Prato. La domanda che viene è per i due più profondi conoscitori di Bagnoli, e arriva anche questa da un ascoltatore che dice, voglio sentire la risposta sia da Franco Nani che da Pierino Fan, cosa penserebbe di fare secondo voi Bagnoli se dovesse trovarsi tra 10 giorni a giocare contro il Barcellona e a giocare contro questo Messi? Io ho letto stamattina, Claudio Gentile, ovviamente hanno chiamato lui, no? come eversore storico di Maradona e Zico, per chiedergli cosa avrebbe fatto. Lui dice: io l'avrei marcato evidentemente a uomo, e secondo me l'Inter avrebbe anche un uomo per adatto a marcarlo. Non ne fa il nome, ma insomma l'identikit è quello di Cordoba. Tu pensi che tuo amico Osvaldo che tipo di meccanismo organizzerebbe? Sentiamo prima te, poi Fanna, che ha fatto anche l'allenatore, che quindi. Io sono in difficoltà perché la prima parola direbbe, sfoglierebbe la margherita, cosa fare, perché sono situazioni che non sono facili, però conoscendo un po' la sua saggezza, quello che è un pochino anche i suoi principi, probabilmente non avrebbe giocato in linea, ma avrebbe fatto posto dei giocatori in fila, non per non essere dato fuori, perché dice mi salta il primo, mi salta il secondo, ma qualcuno me lo fermerà. Penso che avrebbe dotato questo una tipo volta, di soluzione. Una volta Pierino, se non sbaglio, l'anno dello scudetto, mi pare che si inventò Brighe su Maradona. Sì, ma difatti la serenità con cui parlava la squadra di marcare questi fuoriclasse ci metteva tutti questa grande tranquillità. Hai ricordato la prima di campionato contro Maradona, gli ha detto a Brigel: prendilo te, quando abbiamo la palla noi vai, e magari si fermava Volpati a marcarlo. Quindi cioè, nonostante ci fossero dei fuoriclasse come Platini, come Falcao o Maradona, cioè lui non disegnava la nostra squadra di giocare, perché è inutile mettere uno a uomo e un giocatore della mia squadra a uomo, e dopo il gioco, quando abbiamo la palla noi siamo uno in meno, perché giocare a uomo allora devi mettere un marcatore, come ha detto Gentile, un marcatore che lo segue a tutto campo. Ma il problema di Messi, perché lui poi parte anche da dietro, quindi cioè, viene a farsi dare la palla, non è tanto gli ultimi metri, quanto è uno che sa dare la palla anche negli spazi per poi andarli a chiudere il triangolo oppure a verticalizzare. Quindi secondo me è un giocatore che va marcato quasi a zona, e poi quando entra negli ultimi 16 metri ci sarà uno che lo prende. Damiano, sempre su questo argomento, cioè come la vedi tu, che tu hai avuto, abbiamo parlato di Bagnoli, hai avuto grandi allenatori, hai avuto Fabio Capello, che era uno che certamente le partite le preparava con una grandissima cura. Io credo che ci sia anche un altro problema per marcare Messi, è che se per caso, quando anche hai marcato lui, ce ne sono almeno altri 4-5 che... Infatti credo che Barcellona ha questo, insomma, Messi riesce anche ad emergere perché la squadra avversaria deve occuparsi di tutti gli altri, anche non solo di Messi, insomma. Penso che l'Inter abbia un'arma che l'ha sfruttata bene contro il Chelsea, insomma, quello di far girare la palla con tranquillità, come magari è difficile vedere squadre italiane che lo fanno. E questo, io ho visto un po' la partita del Barcellona, quando l'Arsenal è riuscito a farlo, qualche difficoltà l'ha creata il Barcellona, certo, perché il Barcellona non è che difende e si chiude e non dia le occasioni le dà. Il problema è che quando le occasioni le ha il Barcellona le sfrutta, la squadra avversaria a volte ci arriva precipitosa, ci arriva non convinta magari, e invece l'Inter penso possa anche far male al Barcellona. Poi Messi o non Messi, insomma. Messi o non Messi. Gianni, hai scritto oggi che il profeta del calcio più bello è più Sivori che Maradona, no? C'è questa trilogia di questo grande fascino di tre mancini argentini. No, io ho detto che è più simile Messi a Sivori che non a Maradona, perché Sivori era più attaccante di Maradona, perché Maradona spesso giocava per la squadra comunque, in una squadra in cui c'erano almeno due punte più punte di lui, che erano Careca e Giordano o Carnevale, sì. E quindi Maradona era più 10 e spesso si faceva vivo soprattutto coi calci da fermo, però giocava più per la squadra di Messi, secondo me. Quindi come funambolismo a me ricorda, e come dribbling molto secco che ti pianta lì, ricorda più Sivori di Maradona. Il tutto però ha una velocità d'esecuzione incredibile. 50 anni dopo, e anche con una dolcezza, no, che lo rende particolarmente simpatico Messi, no? Ti viene voglia quasi di adottarlo, sembra un pulcino, mentre Sivori era un caraco, no? Era uno che infieriva, era uno che... Se era uno che se poteva darti una scarpata, E aveva il suo fascino questo, per carità, però mi pare che abbia altrettanto fascino questo Maradona così... Ma perché fa venire in mente i ragazzini che giocano all'oratorio con questo ciuffo e questa faccia quasi sempre felice comunque... È uno che non crea problemi, sì, agli avversari sì, ma voglio dire, non li prende in giro. Infatti mi sembra anche che lo risparmino, cioè che certe entrate che potrebbero fargli più o meno volontariamente, tipo o prendo il piede o prendo la caviglia, con lui le facciano un po' meno che con Maradona e Sivori. Ha detto ieri da questi microfoni, ha detto una cosa molto, mi è piaciuta molto, Ottavio Bianchi, ha detto: mi sembra che ci sia da parte degli avversari nei confronti di Messi lo stesso rispetto che c'è per Federer, che evidentemente non è uno sport di contatto, il tennis ci mancherebbe, però vedi che si inchinano quasi a Federer, no, quando è giornata di grazia, perché comunque è troppo forte, è troppo superiore. È uno di quei giocatori che si può dire ci ho giocato contro, quindi. Bravo, ci ho giocato contro, e questo è già un titolo di merito. L'ultimo intervallo, credo che Gianni ci stia per salutare, giusto? Dovrei fare degli assaggi nella mia isola, diciamo. Sarebbe ora di partire. Però vado via malvolentieri, spero che ci sia tanta gente a festeggiare questo scudetto o questa promozione. Io mi tengo le mie preoccupazioni per il Chievo, ma il 2 giugno saranno già passate. No, passeranno anche quelle. Guarda, anzi, in tua assenza sentiremo come va qual è la proiezione sul Chievo. Avete chiesto in tanti di intervenire, insomma, almeno oggi siamo in tanti qui, e quindi è ovvio che c'è meno spazio per voi ascoltatori rispetto agli appuntamenti normali, però direi che almeno un paio campione c'è spazio, magari un po' più sintetico del solito. Vincenzo ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Grantini, agricoltore e neoviticoltore, è un piacere sentirlo da Vinitali. Bravo, congratulazioni. Grazie mille. Niente, volevo fare, io lo ascolto spesso perché lavorando in campagna mi piace ascoltarla, e niente, volevo sottolineare il fatto che dopo tanti anni non c'è una squadra inglese nelle semifinali. E poi vorrei spezzare una lancia in favore del signor Mourinho, mi sembra che stia trovando la quadratura della squadra dopo tanti anni di dispiaceri. Volevo sentire un suo parere, l'ascolto per radio. No, io oggi i pareri li delego perché sono circondato da intenditori veri, io ogni tanto me la tiro da intenditore, ma oggi qua ce n'è di cosa. Allora, su questo le risponde Pierino Fanna da ex interista. Ma sì, può. Dopo 7 anni che il Manchester mi sembra andava avanti, ci può stare che anche gli inglesi cedano il passo, anche perché voglio dire, prima o poi può capitare di trovare anche il periodo non buono. Per quanto riguarda Mourinho, si sa che si vede che sta facendo la squadra a sua somiglianza, immagine, una squadra molto forte fisicamente, tatticamente, e soprattutto gli sta dando quella convinzione che negli ultimi anni, quella personalità internazionale che negli ultimi anni gli è mancata per vari motivi. Quindi ha dei grandi giocatori, e l'Inter quest'anno, facendo gli scongiuri, secondo me può arrivare fino in fondo. Daniele ha chiamato da Verona, da qua. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Sì. Io volevo fare una segnalazione, approfitto diciamo a tutti, ma in particolare a Damiano Tommasi, perché mi permetto di pensare che forse potrebbe essere, diciamo, la persona giusta. Cerco di essere breve. Io sono in contatto con una fondazione che ha sede nell'Alta Galilea, precisamente quindi Israele, sul confine con Libano, dove stanno mettendo in essere una serie di progetti di pace, vorrei usare la parola pace con la P veramente maiuscola, praticamente accomunando ragazzi arabi, ebrei, drusi, un po' di tutte le etnie, perché l'etnia proprio non conta, di tutte le razze, tutte le religioni, in vari progetti teatrali, musicali, eccetera. Per esempio sono quelli che sono esibiti quando il Papa è andato in visita in Terra Santa un anno fa. Per questi progetti c'è una squadra di calcio che si chiama United Colors of Galilee, c'è proprio anche un sito internet. Mi piaceva di sapere se poteva interessare a Damiano Tommasi, che credo sia una persona molto sensibile a iniziative di questo tipo, e come prendere contatto con lui. Ecco, tutto qua. Damiano. Sì, ho sentito che c'è un sito internet, magari se ci lascia il sito internet, sì. Io lascio il mio sito internet, che è www.damianotommasi.it, sono in contatto giornaliero col sito internet. Sì, questo lo posso anche testimoniare. Daniele, grazie. È bello che fioriscano, no, anche di queste informazioni, di queste iniziative. E a tal proposito, prima che poi me ne dimentichi, Franco Nanni, a queste persone che giustamente secondo me dicono: ma non ci sono solo gli ex calciatori a cui badare. Mi pare che la vostra associazione, e quella del Torino, e quella della Fiorentina, e a maggior ragione quella del Barcellona, che è nata prima di tutte e che era più strutturata, mi pare che non pensiate soltanto ai vostri ex colleghi, ma abbiate iniziative più a tutto tondo. Certamente, cioè il fatto dei giocatori è una cosa comunque che va valutata anche in base a tante circostanze che ci possiamo trovare, ma se noi abbiamo costituito un'associazione Onlus è per aiutare tutti quelli che hanno bisogno, non solo i calciatori. Quindi è un chiarimento che ci terrei precisarlo, perché fare del bene non ci sono categorie, fare del bene tutti possono avere i suoi bisogni e tutti hanno diritto di essere aiutati. E sbaglio o la prima persona degli ex del Verona che avete messo nel mirino, nel senso migliore del termine in questo caso, è la vostra ex guardarobiera storica del Certamente. Verona? Certamente, mi riferiva a Pierino, che durante un funerale di un addetto del Verona abbia esclamato: di me sono dimenticati tutti. È la prima persona che noi stiamo aiutando, ne siamo orgogliosi, ma noi vorremmo avere tanti mesi per aiutare tutti quanti possibile, certo. Quindi non è riferita solo agli ex calciatori. E a molto servirà davvero questa partita celebrativa del 2 giugno, no? del 25ennale dello scudetto. Dopodiché da lì in avanti magari si andrà un pochino più a fari spenti, perché poi queste cose sono molto belle da fare, dirle è giusto, e magari poi a un certo punto smetteremo di sottolinearle proprio perché diventeranno normali e abituali come prassi. Sentiamo la nostra rubrichetta classica di tutti i giorni, il ripasso della storia. La sigla. No, c'è un problema, evidentemente non parte la sigla di Sembra Ieri, non importa. Siamo ormai, mi pare, a un minuto e mezzo dal fischio finale. Da fischio finale oggi, no, è pronta, dai, Sembra Ieri. Sembra Ieri. 8 aprile 1979. Il sorprendente Perugia di Castagner, secondo in classifica, fallisce l'aggancio al vertice non riuscendo a sfruttare il fattore campo. A Pian di Massiano, l'attesa sfida scudetto con il Milan capolista termina infatti 1-1, risultato che è il frutto di due calci di rigore assegnati dall'arbitro Agnolin nel giro di due minuti. Al 15° i rossoneri passano con Chiodi e al 17° gli umbri pareggiano con Casarsa. Il distacco tra le due squadre rimane quindi di due punti. Uscito indenne dallo scontro diretto, il Milan di Lidl vincerà le successive tre partite e il 6 maggio, pareggiando a San Siro col Bologna, si assicurerà con un turno di anticipo lo scudetto della Stella. Scudetto della Stella che aveva inseguito invano 6 anni prima qua a Verona, no? Credo nel giorno più nero della storia del Milan, in campo con la maglia gialloblu c'era uno che si chiamava Franco Nanni, se non sbaglio. Esatto. C'era anche uno che si chiamava Franco Nanni. Sì. Diciamo così che io non ho avuto la fortuna di vincere scudetti, ho vinto due campionati di serie B, 1 Venezia e 1 Verona, però almeno si ricordano, perché quando a volte chiedono o non si ricordano dove ho giocato e se ho giocato, dico beh, io facevo parte di quella squadra che batté il Milan 5-3, e allora tutti si ricordano. Okay. Certo, penso che comunque a noi sia umanamente dispiaciuto, loro venivano dalla vittoria di Salonicco, però ripeto, una partita che loro andava tutto storto, non andava tutto bene, alla fine fu il risultato che vincemmo 5-3 e vinse la Juventus con la vittoria di Roma. L'Olimpico gol di Altafini prima e Cucurellu poi in rimonta a 6 minuti alla fine, ricordo abbastanza bene quegli anni. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, quindi io non so come ringraziare davvero, e non so neanche se andare in ordine alfabetico, ma no, vi guardo. Allora, Franco Nanni, Damiano Tommasi, Pierino Fanna, grazie in regia a Filippo Aureggi, a Daniele Ciocia, a Davide Ciocia, scusami Davide, a Elena Ligios che ripeto veglia su di noi, grazie alla Regione Veneto per l'ospitalità di questo stand. Vi ripeto, questa era la prima di una serie di dirette che vanno in onda da qui. La prossima, tra due ore esatte, Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Buon pomeriggio.